La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci, La Rosa Purpurea, spazio settimanale del cinema qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, mezz'ora insieme per parlare di cinema. Vi dico subito che dalla prossima settimana ridiventa un'ora insieme per parlare di cinema, come è sempre stato fino a circa un anno fa. Ridiventano le 18, come è stato spesso, sempre fino a circa un anno fa. Insomma, ritorniamo all'antico, ma evidentemente l'antico è piaciuto, e quindi da settimana prossima alle 18 per un'ora La Rosa Purpurea, l'ora settimanale di cinema, come la chiamavamo una volta. Ma becchiamoci sta mezz'ora, andiamo avanti perché c'è un sacco di roba da dire questo fine settimana, tanti film molto interessanti, tanti film che vi porteremo a vedere attraverso il nostro programma. Io voglio cominciare subito con un film che mi ha molto divertito, mi ha molto convinto per la sua realizzazione e trovo possa essere davvero una sorta di nuovo capitolo, di nuova pietra miliare per una generazione giovanissima di oggi. Non voglio scomodare nomi altisonanti, ma un po' come fu forse per noi quando eravamo ragazzi un E.T. oppure un Guerre Stellari. Stiamo parlando di Guardiani della Galassia, nuovo prodotto Disney Marvel. Sentiamo la clip. Dobbiamo fermare Ronan. Come? Io ho un piano. Tu hai un piano? Sì. Prima di tutto stai copiando me quando ho detto che avevo un piano. Ma non è vero, è una frase che la gente ripete sempre, mica è una cosa che si dice una volta. E secondo, non credo che tu abbia un piano. Io ho parte di un piano. Che percentuale di un piano pensi di avere? Tu non hai diritto di fare domande dopo la stupidaggine che hai fatto a Nowhere. Ho appena salvato Quill. Abbiamo stabilito che distruggere la nave su cui sono non è salvarmi. Quando è stato stabilito? Tipo 3 secondi fa! Non stavo ascoltando, avevo altri pensieri. Beh, la voce indimenticabile di David Bowie per una colonna sonora tra l'altro straordinaria, tutta a base di successi a cavallo fra gli anni fine 70, anni 80, contenuti in un Walkman, in un vecchio Walkman a cassette che è un po' l'oggetto simbolo, feticcio dell'infanzia del protagonista. Guardiani della Galassia non è sicuramente uno dei fumetti Marvel più conosciuti in Italia, però l'operazione cinematografica riesce benissimo. La storia di un esploratore inseguito da cacciatori d'Italia per avere rubato una sfera che è molto ambita da un essere parecchio malvagio e che ha sostanzialmente il potere di controllare l'universo. Per sfuggire a questa caccia all'uomo il protagonista ha una compagnia di giro piuttosto bizzarra tra una piccola volpe, un procione armato, un umanoide dalle sembianze di un albero. Ce ne sono di tutti, chiaramente c'è un effetto lisergico piuttosto importante in questo film, però c'è anche una parabola, che è una parabola di grande tolleranza e di grande amore per il cosmo e per in piccolo anche per la natura terrestre. Boris Sollazzo in collegamento con noi, ciao Boris. Io direi Groot. Groot, esatto, bravo, però, bravo. Insomma, direi invece buongiorno perché siamo in una radioserie e non una trasmissione seria. Groot, personaggio dell'anno, assolutamente. Esatto, assolutamente. Esatto. Per capire appunto quanto vi potrete divertire con i Guardiani della Galassia, immaginate quanto possa aver coinvolto anche un semplice critico il film se l'uscita è questa, insomma, molto poco ortodossa. Ed è molto poco ortodosso anche i Guardiani della Galassia. Tu prima facevi riferimento al fatto che possa diventare il culto di una generazione, sono pienamente d'accordo, però forse più di E.T. è l'altro che hai citato che potrebbe emulare, che è Guerre Stellari, perché di Guerre Stellari ha il gusto goliardico, allo stesso tempo avventuroso, della compagnia di giro strana, anche proprio fisicamente strana, no? Se vogliamo i Guardiani della Galassia possiamo ritrovarli 30 anni prima o 40 anni prima in Chewbacca, in tutti gli altri personaggi, compreso Han Solo e via dicendo. Questa è la forza dei Guardiani della Galassia, che curiosamente non è né uno dei più famosi né uno dei più riusciti comics della Marvel, ma rischia di diventare uno dei più famosi e dei più riusciti cinecomic della Marvel, e questo perché mette insieme qualcosa che forse avevamo dimenticato in questa overdose di film supereroistici, cioè il fatto che un buon film d'avventura, che sia Sandokan o che sia Guerre Stellari o che sia appunto Guardiani della Galassia, deve mischiare commedia, dramma e avventura costantemente, e non deve dimenticarsi la commedia. Qui c'è tantissimo, secondo me riprende anche la moderna generazione dei cartoni animati, dei film d'animazione, che lo stratagemma della commedia, anche un filo demenziale, la riprende. Qui in alcuni momenti sembra di stare addirittura in balle spaziali. Il risultato è che raramente vi sarete divertiti come vedendo i Guardiani della Galassia, e allo stesso tempo vi troverete soprattutto nel finale a chiedervi che cosa sta succedendo e a essere sinceramente anche un po' ingenuamente stupefatti. Sembra di tornare indietro nel tempo a quando il cinema ci sorprendeva, quindi assolutamente da promuovere i Guardiani della Galassia. Non vedo l'ora di vedere i sequel che sicuramente ci saranno. E allora, pienamente promosso Guardiani della Galassia dal pubblico, dagli incassi che saranno sicuramente stellari, e fatto bene Boris a dire l'ironia è davvero la cifra di questo film, perché sì, si ride, ma sempre in una maniera affascinante, intelligente, attraente, non della risata grassa e che poi non lascia niente nel secondo immediatamente successivo. Guardiani della Galassia di James Gunn, con un cast che è soprattutto, diciamo così, vocale, perché poi sono tutti talmente truccati, i vari Zoe Saldana, Bradley Cooper, Benicio del Toro, eccetera, che si fa fatica chiaramente a riconoscerli. Giochiamo insieme con la nostra prima traccia del game di oggi, il film misterioso da indovinare. Allora, statevi a sentire. Quando viene il vostro turno, ognuno di voi salirà sul palcoscenico e può fare un numero solo. E allora, di che film si tratta? L'avete già indovinato? Un film di qualche anno fa, direi di parecchi anni fa. Per i cultori, La Rosa Purpurea, @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica per provare a vincere, indovinando di che film si tratta e con il vostro indirizzo, una delle due copie di questo Blu-ray, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra clip. Prima di passare a sentire come vanno le cose sulle strade, cominciamo a regalare biglietti. Vi avevo detto, è una settimana molto piena di premi e di regali questa. Cinque coppie di nostri ascoltatori che da questo momento scriveranno al 349-238-6666 un SMS semplicemente con il loro nome, cognome e indirizzo e con la loro volontà di partecipare, potranno andare a vedere Il Sale della Terra di Wim Wenders, il nuovo documentario nelle sale da questo fine settimana, il documentario sul grande fotografo Sebastião Salgado. E allora, questa offerta, diciamo così, è solo per chi può andare a vedere il film nelle sale di Roma, Milano e Torino, perché il film ha una distribuzione ovviamente de sé e quindi è solo in certe città. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, andiamo avanti. Dicevamo, ancora tanto grande cinema. È una settimana davvero speciale questa, perché c'è un altro film che è unico, se vogliamo, nel suo genere e nella storia del cinema, e che sta intanto commuovendo, piacendo. Vedo che nei social lievita parecchio, potrebbe anche essere diventare un caso cinematografico. Del resto lo dirige un regista che non è certo uno sconosciuto, come Richard Linklater. Nel cast Patricia Arquette, Ethan Hawke sono i due attori principali. Stiamo parlando di Boyhood. Allora, qual è la particolarità di questo film? Che sì, è un film girato in 39 giorni, ma peccato che questi 39 giorni sono divisi in un arco temporale di 12 anni tra il 2003 e il 2013. Praticamente è una sorta di esperienza cinematografica in tempo reale, ovvero vediamo davvero crescere, cambiare, invecchiare i protagonisti del film, di questa storia. Sentiamo. Ehi, basta, rimettete la barriera. Posso usare le spondine? Niente spondine, la vita non regala spondine. E adesso pulisci! Abbiamo un nuovo studente tra noi oggi. Benvenuti in questo schifo. Mamma! Hai bevuto per caso? Sì, un po'. Ok. Chi vuoi diventare, Mason? Che cosa vuoi fare? Allora, questo è un po' il sunto, l'avete sentito, ricostruire la vita di una famiglia attraverso l'infanzia e poi adolescenza dei ragazzi, una cosa che tocca tutti noi, ma vederla al cinema e sapere che in fondo è tutto vero, cioè che quei personaggi sono davvero cresciuti davanti alla telecamera, alla macchina da presa, è davvero una cosa che mette una certa emozione. Un esperimento di un regista, Boris, come Richard Linklater, che non è nuovi esperimenti, è uno che ci ha sempre provato a fare un po' il film della vita, no? Assolutamente sì, vi avverto subito, andrete a vedere Boyhood e sappiate che andate a vedere un capolavoro, ma uno di quelli che entrerà nelle famose classifiche dei 150 o 10 film più belli della storia del cinema. In qualche modo entrerete in sala e vedrete la storia del cinema, come hai detto tu, perché è un esperimento unico, ma perché è un film di una bellezza struggente, straordinaria, eccezionale. Che cosa fa Linklater? Racconta il cambiamento, racconta il movimento, racconta 12 anni del nostro mondo, in particolare degli Stati Uniti, attraverso 12 anni di una famiglia. Lo fa in una maniera straordinaria, con degli attori meravigliosi, Ethan Hawke, forse mai così bravo, Patricia Arquette, Ellar Coltrane, il piccolo Mason. E la magia del cinema è che Richard Linklater ce la fa, poteva succedere qualsiasi cosa in questa dozzina d'anni che avrebbe potuto in qualche modo rovinare il film, e non è successo. È un film molto lungo e non ne sentirete assolutamente il peso, è un film che vi porterà all'interno di una famiglia, all'interno di un'esperienza quotidiana lungo una dozzina d'anni, che vi farà immedesimare in una maniera sconvolgente, perché racconta 12 anni di noi, 12 anni della nostra vita attraverso una famiglia particolarissima, allo stesso tempo molto molto normale. Se vogliamo raccontare diciamo il nuovo millennio attraverso qualcosa di normale, rendendolo eccezionale, lo dovete vedere attraverso gli occhi di Richard Linklater, attraverso Patricia Arquette, attraverso Ethan Hawke. Grazie Boris, appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, due film però davvero molto molto molto buoni, ne escono anche altrettanti. Noi per il momento giochiamo insieme invece con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Senta, scusi, sa dov'è un sì. Bagno pubblico? Bagno pubblico, bagno pubblico, sì. Allora, avete sentito una leggera, diciamo così, inflessione toscana in chi poneva la domanda, e questa è una traccia, un film di tanti anni fa, inflessione toscana. La Rosa Purpurea @radio24.it, titolo del film, vostro nome, cognome e indirizzo, provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film. E adesso invece parliamo di un festival, che va avanti fino al 1 novembre, con ambizioni importanti, con una visione internazionale importante e grandi personaggi della storia del cinema. Stiamo parlando del San Marino International Film Festival ed è con noi il direttore, che è anche un amico, che è anche un grande regista, Maurizio Zaccaro. Ciao Maurizio! Ciao, ciao a tutti! Allora, grazie. Maurizio, ti sei buttato in questa impresa iniziata da poche ore, già con il botto, perché c'è stato già un concerto di Emir Kusturica e della sua No Smoking Orchestra, che tra l'altro si replica stasera al Palazzo dello Sport di Riccione. Sì, alla Play Hall di Riccione, dopo il successo di ieri sera, speriamo che anche questa sera il pubblico sia numeroso come appunto lo è stato ieri. Diciamo che comunque è una mia linea di rendere un po' un festival cinematografico sia anche un festival di cinema, musica e teatro, tant'è che abbiamo anche eventi particolarissimi come per esempio un reading di Marina Massironi importantissimo su Giulietta Masina, che festeggiamo addirittura con una mostra molto particolare allestita all'interno del Palazzo del Cinema di Serravalle nella Repubblica di San Marino. Senti Maurizio, hai davvero dato un respiro internazionale a questa manifestazione. Quale pensi che sia l'idea che sta al cuore, che sta al centro di questo festival? Ma soprattutto avvicinare anche dei personaggi importanti, internazionali infatti, al pubblico, in modo che questi personaggi non solo vengano fatti incontrare col pubblico, ma che raccontino la loro esperienza attraverso appunto delle lezioni magistralis. È il caso di Ermanno Olmi, il 31, è il caso di David Warren. David Warren è un nome che forse dice poco alle persone, perché è un regista americano, ma è un regista che però ha fatto Casalinghe disperate e Hazel Betty. E così via, insomma, ecco, abbiamo un po' cercato di fare un mélange fra queste tre linee culturali, cinema, televisione e teatro e musica, insomma quattro. Maurizio, c'è anche una grande retrospettiva dedicata a un grande del cinema italiano come Luigi Comencini. Una retrospettiva, sì, perché oltretutto quella retrospettiva è dedicata, sono delle matinee che noi dedichiamo alle scuole di tutti i settori che possono venire a San Marino, e verranno a San Marino, le adesioni sono state numerosissime, per vedere dei capolavori assoluti che devono essere così come erano stati pensati. Maurizio, allora, grazie davvero, in bocca al lupo per il San Marino Film Festival e ci sentiamo prossimamente. Grazie a tutti voi e vi invito al San Marino Film Festival. E allora, con l'invito di Maurizio Zaccaro al San Marino Film Festival, noi andiamo avanti con il nostro programma perché il tempo stringe, dobbiamo regalare ancora biglietti, ancora grande cinema ai nostri ascoltatori, perché c'è un altro film che sta per arrivare al cinema, lo farà esattamente la prossima settimana, si intitola La Spia, è diretto da Anton Corbijn, ma soprattutto nel cast vede tra l'altro... un cast molto importante, vede tra l'altro Philip Seymour Hoffman, forse l'ultima sua interpretazione prima della tragica scomparsa di qualche mese fa. E allora, siccome il film esce settimana prossima, ne parleremo con calma, ma ci sono delle anteprime il 28 ottobre in 6 città alle 20:30, cioè nei cinema della catena UCI, quindi Porta di Roma, Bicocca Milano, Casoria Napoli, Meridiana Bologna, Lingotto Torino e Firenze. Ebbene, chi può andare, vuole andare in queste 6 anteprime il 28 ottobre alle 20:30, scriva da questo momento al nostro SMS 349-238-6666 semplicemente il suo nome, cognome e indirizzo, aggiungendo La Spia, almeno capiamo che volete partecipare a questa anteprima che è solo il 28 ottobre alle 20:30. Ecco, ve lo dico, quindi ripeto il nostro numero di SMS 349-238-6666, chi vuole andare all'anteprima a Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino e Firenze del 28 ottobre alle 20:30 del film con Philip Seymour Hoffman, scriva il suo indirizzo, il suo nome e La Spia, almeno vi riconosciamo, poi sarete ricontattati dalla nostra segreteria che vi darà tutti i dettagli. A questo punto non ci resta che passare alla fase conclusiva della Rosa Purpurea, ovvero quella dei film da vedere in casa, cominciando con il game della scorsa settimana. Quante volte siamo stati qui? Dimmi quante volte. Per me è stata un'eternità. E si trattava di The Edge of Tomorrow, film con Tom Cruise della fine della stagione, diciamo, passata, un film molto interessante, sempre sulle ricorrenze del tempo, su un uomo che continua a tornare allo stesso punto e deve invece districarsi da questa sorta di labirinto temporale. Lo hanno vinto Andrea Santamaria di Genova e Antonio Piscopo di Vieste, provincia di Foggia, saranno loro a ricevere il Blu-ray di questo film, del quale parliamo con Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, parliamo di Edge of Tomorrow di Doug Liman, un bel film di fantascienza divertita e in fondo anche un po' teorica, con il soldato Tom Cruise chiamato ad affrontare gli alieni un piccolo problema. A ogni battaglia muore e quando si sveglia è sempre lo stesso giorno, come nel classico degli anni 80 Ricomincio da capo, ma anche come nel recente Source Code. Il Blu-ray è di elevatissima qualità video, l'audio è decisamente esaltante nella versione originale, anche se poi in italiano si deve accontentare di un Dolby 5.1. Ottimo invece il comparto extra con commenti, approfondimenti e scene eliminate. E questo per quel che concerne allora il game della scorsa settimana, l'uscita in Blu-ray consigliata dalla Rosa Purpurea. Andiamo avanti perché invece, spulciando fra i palinsesti della TV, c'è un appuntamento proprio imminente, cioè domani mattina alle 8:25, quindi un orario tutto sommato anche non impossibile, c'è un film veramente straordinario che si intitola Le passeggiate al campo di Marte ed è un film che racconta la figura del presidentissimo francese François Mitterrand. Sì, esattamente, Le passeggiate al campo di Marte, domattina su Rai Mulia alle 8:25, tratto dal libro biografico Le Denis Mitterrand, racconta appunto gli ultimi mesi di vita e di potere del presidente francese. E lo fa attraversando le testimonianze di un giovane cronista di sinistra che cerca di tracciare il profilo giornalistico delle sue opere, parole, presenti e anche passate. Guédiguian, che conosciuto anche come una sorta di Ken Loach marsigliese, cerca luci e ombre della storia del presidente, ma non fa comunque un film inquisitorio, riuscendo sempre a essere, come nel suo stile, comprensivo e decisamente umanista. E allora ricordiamo l'appuntamento per Le passeggiate al campo di Marte, domenica 26 ottobre alle 8:25 del mattino. Grazie Giulio, ci risentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E allora, alla prossima, che sarà alle 18, lo ricordo, di sabato prossimo, dal 1 novembre, torniamo alla collocazione oraria delle 18, torniamo soprattutto alla lunghezza di un'ora e diamo più respiro possibile al cinema. Grazie per averci seguito, ci sentiamo la prossima settimana.